minchia, lo sto vedendo. Lo sto vedendo che si sta scaldando. Caldo, caldo. Lo vedo che è bello caldo. Arriva un SMS di ogni tipo. Grande Pino manda a fanculo il papà di Jim. Che non so chi è sto Jim. No, ma c'è un coglione qua che si chiama Claudio che ha scritto. Ma chi è sto coglione che ti ha fatto venire in rama? Ma che t'ho scopato la donna pure a te? No! Pino! Pino! Quello sotto, ma sai solo criticare gli altri, ma vaffanculo e impara a cantare. Ma vaffanculo tu, stronzo! Probabilmente sei qualche stronzo di qualche band del cazzo. No, no, che... te lo dico io chi è, quello è Nicola Cavino. Quell'anno maledetto che gli puzzano le mani di piedi e scarpa. Bastardo, te e quell'altro Litus, quello con cui lavoro. Ictus, che prima o poi ci vengono che sono due vecchi. Senti Pino, Biscotto voleva sfidarti sui Guns N' Roses. Cosa sai dei Guns N' Roses? Minchia. Dei Guns N' Roses, cioè, secondo me è l'esempio di quello che ho detto prima. Cioè, una delle più grandi band di rock and roll che sono nate per colpa di quella merda di Axel è andata tutta a puttane. Ci ha messo 10 anni, alla Sony gli è costato $1 miliardi per uscire con un disco che si chiama Chinese Democracy, qualcosa sì, di Chinese un Democracy. Disco di merda, brutto, proprio. Brutto. Fa proprio schifo cazzo. Senti, io a sentirti parlare così male del mio gruppo preferito mi girano i coglioni, vuol dire che di Rocco grande tu, Slash, tu grande. Non capisci un cazzo, sì. Perché appunto il chitarrista Slash. Quello che c'ha il cappello grande perché c'ha la testa alta. Ma sì. Perché lui mette la chitarra nel cappello quando va a fare il concerto, tutto fatto, spaccato a metà. Quello è il mio eroe, perché da piccolo io lo imitavo, suonavo e poi vomitavo in un secchio e mi riversavo dentro. Biscotto, tutto spaccato. Non so se gli amici che stasera guarderanno Comedy Central o MTV penseranno la stessa cosa, ma più che Pino Scotto sembri Yoko Ono ingrassata. Sembri il leone di Lerner dopo che è stato inculato da un asino. No. Sentiamo la domanda di Jacko. Attenzione. Pino, è vero che Vasco ti caga in testa? Ecco, Pino non ama molto Vasco Rossi degli ultimi tempi. Sì, cioè, a me è una cosa che mi sta veramente sul cazzo. Sì. Che sta gente che riempie gli stadi, che hanno la responsabilità della Madonna di dire ai ragazzi che glielo stanno mettendo nel culo, che questa società gli sta fottendo il cervello e la vita, nei testi non dicono mai un cazzo, cantano se la cantano da soli. Ecco, ma parlando di società, di casini che sono successi, cosa ne pensi della politica italiana, Pino? Maronna! Ma che tasto! Tipo, cioè, tu sei più di destra o di sinistra? Guarda, io il mio cuore è rimasto a sinistra, mm-hmm. Ma dopo che è morto Berlinguer è morta la sinistra, secondo me. Quindi sei apolitico. Ma il problema alla fine, che cioè, qui si parla male di Berlusconi, che poi adesso la gente sta parlando della multa di Berlusconi, prima parlava di figa che si trombava, sì. Ma saranno cazzi suoi. Oh, è quello che cioè, diciamo anche capito. Noi. Ma pensate a lavorare per il paese, pensate. Ma tu te la Però faresti alla fine sono tutti uguali. Tutti. Sono tutti uguali. Tu te la faresti da Dario? La Daddario, chi cazzo è la Daddario? Quella che se pare si sia fatta il presidente. Ah, quella bionda. No, io sono innamorato. Di chi? Di chi? Cose. C'è il cuore impegnato tu, Pino. C'è il cuore molto impegnato. Ma non sei sposato? Molto impegnato. Sei fidanzato? Vero. Sei fidanzato? Non si può Cosa dire. Come non si può dire? Ah, dai, altra domanda di Jacko, vai. Pino, è vero che sei identico a Ozzy, ma lui ce l'ha decisamente più lungo. Che domanda è? Ozzy è uno che riesce a stonare anche sui dischi. Lui ha creato questo personaggio. Io lo rispettavo, ma quando ha fatto entrare le telecamere lì di MTV, non so che ha fatto. Di MTV, sì, a casa quel sua. Reality del, che sì. Ha fatto vedere che c'è una famiglia di merda proprio. se ci avesse due figli così li prenderei a schiaffo 8 volte al giorno. Lo so, però non mi trovo d'accordo con te, caro collega minorato. Sì. Perché vedi, lui è stato il primo a seguire, prima ancora di Marilyn Manson. Sì, Manzo. Che si è ingappettata la capretta che diceva ciao. No, sopra. Che si è ingappettato il pipistrello. Se, no, Ozzy Osbourne si mangiava pipistronzi. Pipistrelli. Lui si mangiava i pipistronzi sul palco vivi, li acchiappava vivi sto malato di mente. Però... Ma chi è che limonava Batman dei due che non ho capito? Che cazzo ne so, sicuramente sono ficcati Robin, lui e la capretta e Merle Manson. Senti Pino, dobbiamo fare una pausa pubblicitaria. Dai, lancia un appello a tutti i ragazzi che ascoltano e che vogliono diventare anche loro dei veri rocker. Sì, comunque io vorrei lanciare anche un appello a voi, sta radio di merda pure a voi. Grazie, cioè cercate di mettere un po' di musica mia, cioè un po' di musica. Io sono d'accordo che ci sia la Pausini, che ci sia. Io no. Però ci deve essere anche rock. Adesso c'è Ringo con Virgin, capito? E ci siamo noi con Rock and Roll Radio. però fate passare anche voi un po' di rock, perché il rock ti salva la vita, cazzo. Ti salva la vita. Ma se uno volesse diventare Rocco, cosa deve fare, Pino? Deve essere una persona onesta. Sì. Una persona compassionevole. Sì. E poi i bambini non si toccano, gli animali non si toccano. I pedofili li curo io, gli sparo in bocca. Bravo! Però... No, non ti dimenticare che per essere veramente Rocco ti devi riuscire a guardare da solo il proprio buco del culo. No, basta! Facciamo la pausa! Ma vai a fare in culo, Pino Biscotto. More 105 Zoo right after this break. Don't leave! Lo Zoo di 105. Il programma che non piace.